Prendi Pride lo si riassume nel Claim, che è un'associazione che lotta attraverso la musica e i suoi operatori e i suoi protagonisti contro omotransfobia, bullismo e sessismo, in maniera molto sintetica. Cosa ci dobbiamo aspettare dalla serata del 27 al TPO? Allora, la serata del 27 è una serata dedicata, cioè pensata alla contaminazione, quindi ci saranno molte band che interagiranno tra di loro, ci saranno molti interventi politici o comunque di associazioni che fanno parte del territorio bolognese che porteranno la loro testimonianza. Facciamo diciamo la line-up. Allora, appunto, ci saranno i Marshmello, che per noi è una cosa bellissima perché è un gruppo torinese di ragazzini di 10 anni che verranno con i loro genitori a sostenere la nostra lotta. Ci sarà Verano con un special guest che non si può annunciare. Ci saranno Le Notte Blonde con Gian Maria Cusani dei Prozac Più, che farà degli interventi delle schitarrate. Ci sarà la mega band di Garrincha, che sono Io la Tigre, più Cimini, più i Botanici, più qualche guest che non abbiamo ancora capito, quindi capite che è molto contaminato, non sappiamo neanche noi cosa succederà, però succederà qualcosa tutti quanti insieme. Ci sarà Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, che verrà a chitarra e voce, però anche qui ci ha già detto che probabilmente ci sarà qualcun altro sul palco con lui, che faranno dei pezzi, delle cover particolari. Ci saranno i Toys Orchestra, anche qui con uno special guest che non ci ha ancora dato sapere. Ci sarà Nicky di Tropical Pizza Radio DJ, che oltre a fare DJ set interverrà con le sue chitarre, non abbiamo ancora capito con chi e come. E poi ci sarà Willy Peyote, Honeybird, a presentare, dove anche lì saranno scoppiettanti, chissà cosa succederà. Rino è un collettivo bolognese di musica elettronica, e nel mezzo ci saranno appunto delle associazioni che porteranno la loro testimonianza, quindi Migrabo, Centro Risorse LGBT e il gruppo Trans di Bologna. Oltretutto abbiamo quest'anno ulteriore contaminazione, quindi non si parla solo di musica, non si parla solo di associazionismo, ma si parla anche di letture, con We Reading, che porterà il monologo di Franca Rame sullo stupro insieme al gruppo performativo Parsec. Indie Pride non è appunto solo il concerto che ci sarà il 27 al TPO, ma è anche la carta di intenti, è un forte impegno. Sì, è un forte impegno che viene appunto fatto non solo con una firma, ma anche con un bacio, perché noi pensiamo che il bacio, intanto, per lasciare il segno ha bisogno del rossetto, e quindi vedere gli uomini che mettono il rossetto, pensiamo che sia un gesto molto forte e bello da vedere, oltre al fatto che stiamo parlando di un bacio, e chi non vuole ricevere o dare un bacio? È la forma di affettuosità e di emozione più forti e più grandi che si possono dare come ricevere. Quest'anno, dall'anno scorso, appunto, continuiamo a richiedere l'adesione alla carta di intenti, che è un impegno reale con i musicisti. Anche quest'anno sono arrivate oltre 50 adesioni. Alcuni nomi, Cimini, Nicky, che appunto vediamo i Toys Orchestra, giustamente, sono anche presenti con la loro musica. Un sacco di etichette di booking, l'Eretico Booking da Palermo, Bassa Fedeltà da Roma, che è un'etichetta. Adesso sul momento, però, veramente sono tantissimi. C'è CRLN, importantissima, che comunque quest'estate è stata testimone purtroppo di un atto sessista fortissimo, perché per 20 minuti all'Indigeno Festival gli sono state date le peggio cose, i peggio insulti, quindi delle testimonianze che noi volevamo e che loro stessi sono messi proprio in prima linea, e oltretutto sembra che questo sia solo l'inizio di una collaborazione a lungo termine. Molto bene, niente, noi ti salutiamo, ti ringraziamo, ci vediamo sabato 27 al TPO. Vi aspettiamo tanto e numerosi, soprattutto venite presto, il primo concerto è alle 8:30. Ciao.